Lo so, sono tutte cose che so. Anche voi però sapete una cosa, che quando sei innamorato tutti gli schemi saltano. È un po' come negli ultimi minuti di una partita importante in cui c'è una squadra che deve vincere a tutti i costi. Ecco, l'innamoramento è come i minuti finali di una partita importante dal risultato incerto. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Mi accorgo di quanto una persona non mi interessi quando cucinare per lui non mi entusiasma. Cucinare è solidificare l'affetto, l'amore e i pensieri. Ti sconsiglio vivamente tutte le ricette ad effetto, artefatte e inverosimili. Ma ti sconsiglio anche quelle fintamente buttate via, tipo «Ciao, passavo di qui per caso». Io non ti rivelerò la mia ricetta, ma ti darò un consiglio prezioso. Scegli il piatto anche in base a cosa vuoi vedere di lei. Sposta la prospettiva. Pensa di non essere te a dover sedurre cucinando, ma lascia che sia lei a sedurti mangiando. Da quello che una persona mangia, da come lo mangia, si possono capire tante cose. Per esempio, se è un uomo a cui piace il pesce solo perché costa di più, o se invece le piace nel senso che se lo scortica pure con le mani. Se è una persona che ama i risotti, se è una che ti chiede le ricette con curiosità, se è una che quando ha finito la porzione si azzarda a riempire il piatto di nuovo, se è una a cui piace magari lo stesso piatto che piace a te. Non accontentarti di copiare la ricetta di qualche chef improvvisato. Cucina, scegli anche per te. In fondo, stai scegliendo una donna. I dettagli non sono certo da delegare. Ringrazio Rebecca, che mi ha scritto questa mail prima sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. La ringrazio perché dà credito a quella cosa che avevo sentito qualche tempo fa, che il mondo si divide in chi cucina per mangiare e chi cucina per raccontare. Cioè, al di là di quelli che non cucinano affatto, quelli che proprio non cucinano per niente, che mangiano sempre fuori, anche se in Italia non accade così di frequente, accade soprattutto all'estero, dove si mangia moltissimo fuori o roba già preparata. Insomma, in Italia più o meno tutti cucinano qualcosa, tutti sanno farsi una pasta più o meno o cucinare un piatto di carne, però tra quelli che cucinano, diciamo, ci sono quelli che semplicemente devono prepararsi della roba da mandare giù e quelli che invece hanno il piacere di cucinare dei piatti per raccontare un pochettino di se stessi a quelli che sono ospiti a casa loro. 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi si parla di ricette, perché è successo che ieri sera ho dovuto preparare una cosa al volo, anche se al volo non era, e ho cercato di prepararla con questo intento qui, cercare di raccontare un pochettino chi ero io attraverso quello che cucinavo, che sembra una vaccata detta così, però in realtà ha un suo significato, perché quando tu prepari un piatto come, ad esempio, come fa spesso Tiziano Bonini, che prepara il pollo alla Marengo, no? Lui prepara il pollo alla Marengo e non abbiamo capito esattamente il perché, qual è la storia del pollo alla Marengo, forse è semplicemente per poter poi parlare di Marengo e far vedere che la sa, la battaglia di Marengo, insomma, quello è un modo per far capire che sì, ok, io la so la storia di Marengo, ma se preparate una paella di dov'è? Di Siviglia, di Valencia la paella, giusto? È perché magari ci siete stati e quindi sapete come farla, avete vissuto un periodo là e quindi avete voglia di raccontarla. Questo vale un pochettino per tutti i piatti che di solito chi sa cucinare cucina, ed è per questo che oggi vorrei sentire solo persone che hanno una ricetta, che è la ricetta che racconta qualcosa di loro. 349-238-6666 per gli sms, invece 800240024 per le telefonate. Tra l'altro, innanzitutto volevo dire una cosa, che io smentisco totalmente tutto quello che su Wikileaks è uscito su Tiziano Bonini e Paolino Corleoni. Non hanno avuto contatti con la Libia, nessuno, se non è assolutamente vero quello che si dice in giro di loro. Invece è vero che qualcuno mi ha detto che io dico troppo ossessivamente 800240024, ma che soprattutto lo dico con una T sola. Il 4 800240024. Un po' è vero, però mi viene così. Quando abbiamo pensato alle ricette, alla puntata di oggi, al fatto che ieri sera ho cucinato una cosa che appunto cercava di raccontare un pochettino qualcosa di me, ci è venuto in mente che sin dall'anno scorso, sin da Vendo Tutto, c'è un ragazzo che ci ascolta in maniera abbastanza assidua e che di questa attività qua, del cucinare, ne ha fatto un mestiere. Si chiama Andrea Vigna. Pronto, Andrea? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene. Allora, Andrea, posso presentarti così, Andrea, che tu, oltre ad essere un ascoltatore di questo programma e dell'altro, sei un cuoco DJ, uno chef DJ? Sì. Cioè, puoi dirlo posso dirlo forte? Senti, dimmi velocemente di cosa si tratta. Cioè, tu cosa facevi prima, cosa fai adesso o cosa fai simultaneamente? No, io faccio entrambe tuttora, nel senso, attualmente io sto facendo musiche per delle sfilate durante la settimana della moda e non solo. Infatti domani sono in partenza per Treviso per una sfilata di Benetton. I restanti giorni della settimana collaboro con un catering molto gestito da ragazzi molto giovani, molto carino, e con un ristorante dove vado a fare degli extra. Però oltre con connubio di due cose. Però oltre a questo Andrea cucina soprattutto per sé e per la sua fidanzata, e anche un blog che si chiama panbagnato.blogspot.it, però se cliccate, se andate su Panbagnato lo trovate. Io quando ho pensato a questa roba ho detto: devo chiamare Andrea per chiedergli una ricetta che sia semplice e che un pochettino, in questo caso racconta forse più di lui che di me, però racconti qualcosa della persona che la sta cucinando. E Andrea ha pensato a... Sono queste pannacotte allo zafferano con il croccante di noci. Allora, la pannacotta allo zafferano è un dolce? È un antipasto, no, è da servire come antipasto. Allora, l'accordo che noi abbiamo fatto con Andrea era questo: lui ci raccontava che cos'era questo piatto e poi da adesso, giusto Andrea, più o meno ce la dovresti fare, si mette a prepararle e prima della fine del programma le ha finite, dopodiché pubblica le foto sul suo blog, perché è un blog fotografico, giusto il tuo, per cui tu semplicemente scatti le foto mentre prepari quello che stai cucinando, così alla fine della puntata io sul mio profilo di Facebook metto il link del suo blog e tutti quanti potete mangiarvi la pannacotta allo zafferano con croccante di noci, o quantomeno vederle o provare a prepararle, giusto? Ecco, sì, vederle sicuramente. Andrea, senti, noi ci sentiamo vederle sicuro, noi ci sentiamo più tardi. Invece però aspetta, prima di passare al racconto di quello che mi è successo ieri, dimmi invece qual è la tua ricetta che ti rappresenta di più? Ma io amo molto i pennuti e quindi mi piace molto la faraona disossata con il ripieno di patate e spinaci. E quanto ci si mette a preparare una roba del genere? Se sei capace a disossare 20 minuti più 10 minuti di... no, più 30 minuti di cottura. Vabbè, ma in un'ora ti viene via. Sì, devi avere una certa manualità con il coltello per disossare, però in un'oretta ce la fai. Okay, mi ripeti esattamente il nome del piatto, è Faraona? Faraona disossata con patate e spinaci. Andrea, ci sentiamo dopo per sapere com'è andata la pannacotta allo zafferano. A più tardi. Grazie mille, ciao, a dopo. Ciao. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. La ricetta che racconta di più di voi. Sabato 27 novembre ore 20:15. Ho riletto il diario. Sono stati giorni difficili. Sono contento di averli scritti quasi minuto per minuto. Difficili da passare, difficili da sopportare. Ho preso un bouquet di fiori, piccolo come lei. I giorni sono passati e la barba sembra già quella di un naufrago. Ora lei è in volo verso casa. Questo è quello che ho scritto sabato sera, perché sapevo che lei sarebbe rientrata domenica. È stata in Mar Rosso con il suo fidanzato, Italo. L'ho già detto che si chiama Italo, no? Mi sa di sì. È che mi sembra un nome talmente stupido che ci tengo a ripeterlo. Che poi lo so che non è un nome stupido, lo so. È che a me sembra così perché ce l'ha uno che non mi piace, mi pare un cretino. Che poi so anche che lui non è un cretino. Mi sembra solo per il fatto che sta con la ragazza con cui vorrei stare io. Lo so. So tutte queste cose. Però anche voi sapete almeno una cosa, no? Che quando si è innamorati tutti gli schemi saltano. È un po' come gli ultimi minuti di una partita importante, no? In cui c'è una squadra che deve vincere per forza, a tutti i costi, e il risultato è ancora sullo 0-0. Ecco, a quel punto lì non conta più chi deve difendere, non conta più chi deve attaccare. A volte non conta nemmeno più chi deve stare in porta. Ci sono dei portieri che negli ultimi minuti della partita, sul corner per la propria squadra, corrono come dei matti nell'area avversaria per cercare di colpire la palla di testa e mandarla in rete. Ecco sì, l'innamoramento è come i minuti finali di una partita importante dal risultato ancora incerto. La gente allo stadio urla, la palla sembra impazzita, tutti i giocatori non ragionano più su nulla, tentano solo di infilarla in rete, in qualsiasi modo possibile. Il problema però è che io non mi sento come uno dei giocatori, ma come uno spettatore. E la differenza è sostanziale, perché per quanto in trance agonistica, i calciatori in campo possono realmente fare qualcosa. Cioè, possono provare a cambiare il risultato. Gli spettatori invece no. Possono solo urlare. Invere contro l'arbitro, contro gli avversari. Possono agitarsi come dei tarantolati nella speranza che qualcun altro faccia un gol, per evitare a loro la frustrazione. Ecco, il gol, nel mio caso, si è annunciato con un suono. Era domenica pomeriggio, erano le 5:30, e lei mi chiedeva se mi andava di cenare, che aveva voglia di vedermi. Io ho lasciato passare quei 10 minuti strategici, che non dessero l'impressione che me ne stavo lì con il cellulare in mano ad aspettare una sua chiamata. E poi quasi distrattamente le ho risposto che non mi andava di mangiare fuori, ma che se aveva voglia potevo prepararle qualcosa a casa mia. La sua risposta è stata: ok, alle 8 sono da te. Erano le 6 e io avevo 2 ore per preparare qualcosa. I never knew a bigger liar. I never knew a bigger liar. Oh, kitchen's getting hot. Yeah, don't you preach what you are not. Just who is your God to leave you so damn flawed? So damn flawed. Per preparare qualcosa, però, era necessario che io avessi qualche ingrediente. Sono uscito, sono corso al supermercato, che ogni tanto fa delle aperture straordinarie la domenica. E quella doveva essere una di quelle. Anche se a occhio a croce sembra sempre una domenica straordinaria, perché praticamente è sempre aperta. Dovevo preparare qualcosa di buono ma di veloce, sempre per evitare di fare la parte di quello che ha trascorso tutta la domenica a preparare la cena per lei, che tornava a casa dopo il weekend col fidanzato, che solo a pensarlo mi sentivo un imbecille. Quindi ho preso della pasta e dei pomodorini freschi. Poi però mi sembrava davvero una cosa da resti del frigorifero. Allora sono andato al bancone del pesce. Ho comprato 2 orate, poi delle patate e qualche cappero di pantelleria. Del gelato, del vino bianco e una burrata fresca come antipasto. Così, giusto per non sembrare provinciale. Ho preso delle candele, anche se sapevo già che non le avrei usate perché fa troppo film italiano di seconda categoria. E poi un mazzo di tulipani, di quegli arancioni che sfumano al giallo. Mentre tornavo a casa mi sono accorto che alla fine sembrava proprio la cena di quello che l'aspettava al ritorno dal weekend col fidanzato, ma chi se ne frega. Ero felice di vederla. Ed ero felice di prepararle una cosa buona. Per lei, ma anche per me in fondo, che alla fine se sono da solo mangio solo 2 fette di prosciutto e del formaggio. Se vado avanti così, tra 10 anni il mio fegato chiede il trasferimento. Sono arrivato a casa e mi sono messo a preparare la cena. In un piatto ho sistemato la burrata con qualche pomodorino ciliegino aperto a fiore e un goccio d'olio extravergine d'oliva intorno. Poi ho acceso il forno e ho iniziato a lavorare il pesce. Ho fatto un'incisione su un lato e ci ho infilato l'aglio tagliato a fette. Nella pancia ci ho messo una fettina di limone, ho preso una teglia, l'ho foderata con carta da forno, ho creato un letto con le patate, quelle che avevo tagliato prima. Le ho condite con sale, olio e un rametto di rosmarino. Ho aggiunto dell'aglio, delle olive e qualche cappero. Poi ho posizionato il pesce sopra le patate, ci ho aggiunto un po' d'olio. Il forno era già a 180 gradi, ho infilato la teglia e ho iniziato ad aspettare. Sono passati 35 minuti, nei quali ho preparato la tavola con una tovaglietta, dei piatti bianchi e 2 bicchieri per ciascuno. Ho messo via le candele che erano davvero improponibili. Ho sistemato i tulipani al centro della tavola. 5 minuti prima del termine della cottura del pesce, l'ho sfumato con un bicchiere di vino bianco. E mentre osservavo il vino bianco che lentamente evaporava, è suonato il citofono. Bella come una bambina. Era abbronzata dal sole dell'Egitto. Aveva una giacca da montagna di quelle tecniche che non lasciano passare né un filo d'aria né un filo d'acqua. Un paio di jeans e quegli stivali scamosciati, imbottiti, quelli che sembrano le zampe di un orso e che vanno tanto di moda anche se sono brutti e antierotici. Che poi forse a pensarci bene vanno di moda proprio per quello. Perché sono talmente brutti e antierotici che una bella ragazza può permettersi di metterseli e tirarselo ugualmente. Per lei ovviamente non vale questo discorso, perché su di lei qualsiasi cosa sembrerebbe giusta, opportuna, che sia di moda oppure no, che sia bella oppure no. Mi ha dato un bacio sulla bocca che era leggero come un Philadelphia Light e poi è entrata. Ha detto che c'era un buon profumo in casa, che era molto affamata. Io ho sistemato le ultime cose in cucina mentre lei si aggirava per la casa, che sembrava muoversi intorno a lei. L'orata era squisita e vederla che la mangiava era meglio che mangiarsela. L'orata, intendo. Era già un'ora che lei era lì e ancora non avevamo parlato di lei. Non avevamo parlato di me, di loro due o di noi due. E io non sapevo se volevo davvero parlarne, perché un po' mi faceva paura quello che avrebbe potuto dire, visto che quello che avevo da dire io era semplice ed era che lei mi piaceva e che avrei voluto stare con lei. Che poi cosa vuol dire stare con lei? Cioè vuol dire passare del tempo con lei, starle un po' più vicino, o almeno starci un po' più vicino e per più tempo di quanto non facessimo. Stavo pensando tutto questo mentre la guardavo mangiare la sua orata al forno, e lei, mentre pensavo tutto ciò, la sua orata al forno l'aveva finita e si stava pulendo la bocca con il tovagliolo di carta. E sembrava stesse per parlare, ma per parlare sul serio. Ci sono delle cose che si tirano fuori non per dire, ma solo per parlare, no? Sono le parole che stanno in mezzo a riempire gli spazi tra una cosa seria e un'altra. Ecco, dopo essersi pulita la bocca, lei ha appoggiato il tovagliolo e ha detto una cosa. Matteo, tu mi piaci molto, ma io sono ancora innamorata di Italo. When will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? Panna cotta allo zafferano con croccante di noci, scrive Andrea. Una ricetta ruffiana, lo ammetto, una ricetta semplice e veloce che ognuno può riproporre per destare curiosità e interesse nei suoi commensali. Quando ho pensato a questa ricetta mi è venuta in mente una situazione particolare, ad esempio una cena a due in casa. Una cena tra due persone che si siedono a tavola e si scoprono ad ogni portata. Ed è per questo, come ho già detto, che per iniziare ci vuole un piatto ruffiano. Un piatto che ha radici di cucina classica, ma al tempo stesso è moderno. Una cena che attraverso i piatti serviti cerchi di raccontare qualcosa di noi alla persona che abbiamo di fronte. Perché il modo in cui mangiamo, ma soprattutto cuciniamo, dice molto di noi. Il carattere che abbiamo in primis, poi la cura di noi stessi, la nostra origine e molte altre cose che più o meno inconsapevolmente mettiamo in ogni boccone che prepariamo. Quindi, se si presta attenzione, quando si va a cena da qualche amico o con qualche nuova frequentazione, si riesce a capire chi sia davanti con una forchettata. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Il piatto che vi rappresenta di più. Dopo la borsa, ah, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Più che in un luogo, nella foto siamo in un'occasione particolare. Siamo all'interno di un negozio e siamo all'inaugurazione del negozio. Quindi si vede l'ingresso del locale, che non si capisce esattamente cosa sia perché si vede solo l'ingresso. Alle spalle, lungo il marciapiede, ci sono una decina di persone e il proprietario del negozio che taglia con una forbice un nastro giallo. Ha su un giaccone a scacchi scozzese, devo dire abbastanza inguardabile, un maglione altrettanto inguardabile, anche lo scozzese, però ha una bella faccia soddisfatta. Giorgio Moranda, 23 anni, dopo 3 anni di precariato finalmente mi sono buttato, ho aperto il mio negozio abbigliamento uomo a Merate in provincia di Lecco. Io sono qui, e voi? Ma è magnifico, ma sentiamolo più spesso. Come si chiama lui? Come si chiama? Ho perso il nome. Giorgio, facci sapere come va l'attività, come va il negozio. Soprattutto mi preoccupa se è un negozio di abbigliamento, perché Giorgio è su un maglione inguardabile. Proprio fai qualcosa. Magari, o magari invece è proprio quella linea lì. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Parliamo di ricette. Il riso Kabuli, un po' adattato al nostro palato, in ricordo di una permanenza in Afghanistan, esperienza indimenticabile per tanti aspetti. Io sono qui e lì. La mia ricetta è l'osso di stomaco bollito con la puccia. Silvio da Bergamo. Silvio, bello duro, Andrea da Novara, pane e salame di Varzi, sincero, semplice e saporito, forse un po' troppo semplice. Luigi di Brescia, la mia ricetta è il freak house. fricò, forse, come si dice sta roba? Se fric, vabbè, è la solita. Se qualcuno sa come si dice freak house, e soprattutto che cos'è, 349-238-6666. Sembra più una roba tedesca, sembra una roba tipo Asfidanken, freak house. Amo mangiare, amo cucinare carni bianche e primi piatti. La ricetta che sento mia è uno stupendo tiramisù e grappe profumatissime. Renata da Vicenza. Andiamo però a sentire al telefono. Andiamo a sentire al telefono Massimo dalla provincia di Forlì. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Massimo, come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, grazie. Senti, tu sei uno che cucina abitualmente oppure solo per occasioni particolari? Ma a me piace stare in cucina, è una passione che ho sempre avuto fin da bambino, forse perché la Romagna è una terra dove non è difficile, diciamo, avere la passione di stare in cucina. Immagino. E la ricetta che fai abitualmente è? La ricetta che faccio abitualmente, soprattutto quando gli amici a cui tengo, sono i cappelletti al ragù, che sono un piatto tipico della tradizione romagnola e che rispecchia proprio, se vogliamo, anche il nostro modo di essere così generosi, così... Ma è questo, così generoso, mi piace molto. Questa è una ricetta che tu hai imparato da qualcuno, immagino. Dalla nonna, ovviamente. È la ricetta della nonna tipica perché ha quelle piccole attenzioni che però ti rendono il piatto diverso e particolare rispetto... Massimo, scusami, ma tu fai tutto, cappelletti e ragù, cioè pasta... Cappelletti e ragù, certo, si parte dal, se vuoi, in ordine cronologico, per fare il ragù che richiede il tempo più lungo, il classico ragù di carne, quindi col trito di carne, col trito quello buono, come diceva la nonna, e che deve bollire per quelle sue 2-3 ore, piano piano, mentre tu cominci a fare la sfoglia e quindi cominci a impastare le uova con la farina. Dimmi quando è stata l'ultima volta che l'hai fatto, Massimo? L'ultima volta è stato sabato scorso. Io adesso abito in Lombardia, abito a Seregno da diversi anni per lavoro, mi sono trasferito, avevo degli amici a cena sabato sera e quindi... Cappelletti al ragù. Cappelletti al ragù, assolutamente. Massimo, grazie mille. Grazie. Ciao, te, buona giornata. Magda mi scrive: risotto con blu stilton, mirtilli e pinoli tostati. Preparazione classica del risotto: a metà cottura aggiungere il blu stilton, mantecare, a fine cottura aggiungere mirtilli e servire con pinoli leggermente tostati. Da bere un rosso morbido e giovane. Ora, cos'è il blu stilton? Nessuno lo sa, benissimo, nessuno anche di là lo sa, perfetto. 349-238-6666, il numero è lo stesso. Andiamo alla provincia di Lecco da Bibi. Pronto Bibi? Sì, ciao, sono io. Ciao Bibi, perché cosa sta Bibi, scusami? È una storia un po' lunga, io mi chiamo Amabile in realtà. Amabile? Sì. E per arrivare a Bibi? Ah, non lo so. Una giravolta di lettere. Quindi non è una storia lunga, è semplicemente cortissima, da Amabile sì, a Bibi. Corto, sì, il nome. Ok. Però una storia antica. Senti, dimmi qual è la tua ricetta, Bibi. Allora, io amo fare i passatelli, che sono un piatto emiliano, che ho imparato quando ero piccola. Come sono i passatelli? Cosa sono esattamente? Passatelli, allora, un impasto, è facile, è un impasto di pane grattugiato. E formaggio in uguale quantità, non so, tipo 250 grammi ciascuno. Sì. 6 uova. Mazza. E noce moscata. Ma per quante persone, scusami? No, non so, 5-6 persone. Senti, Bibi, perché questa ricetta ti rappresenta? No, è una cosa che faccio volentieri. Ho iniziato a fare da grande quando mia mamma e i miei non ci sono stati più e ho ripreso io e siccome hanno avuto sempre successo, okay. La propongo volentieri. Va bene, è proprio per fare bella figura anche. Sì, poi è facile perché si impasta, si schiacciano con una schiaccia patate ma con i buchi grossi. Ok, insomma è anche facile da fare. Grazie mille Bibi. Anzi, prego, Amabile, ciao. Direi. Buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Tortona da Serena. Pronto, Serena? Pronto, ciao. Ciao, Serena. Pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Ti sento un po' male, ma secondo me se stai ferma dove sei ci sentiamo meglio. Non mi muovo. Brava. Okay. Raccontami qual è la tua ricetta e perché ti racconta qualcosa di te. Allora, questa ricetta è una ricetta che ha insegnato la mia bisnonna, Triana, classe 1894, che durante la prima guerra mondiale era stata presa dalle coste dell'Istria, dall'impero austro-ungarico, vicino a Graz, in Siria, e poi anche a Bulgaria. Ok, aspetta, Serena, guarda, purtroppo ti sentiamo male, quindi proviamo a richiamarti. Ho capito solo che la nonna era istriana e che c'era qualcosa che aveva a che fare con l'Ungheria. Però intanto vi leggo un'altra ricetta. Dennis mi scrive: fusilli di Kamut. O Kamut,